Nello stesso giorno in cui scrisse quanto sopra, inviò la seguente lettera a Mr. Smith. 16 marzo 1850. Le restituisco la lettera di Mr. H. dopo averla letta con cura. Mi sono coscienziosamente sforzata di capire quanto egli dice sull'arte, ma per la verità il mio tentativo è stato coronato da un totale insuccesso. Tra i critici è in uso un certo gergo attraverso il quale mi è assolutamente impossibile penetrare e vedere la luce. Tuttavia una cosa vedo con sufficiente chiarezza, e cioè che Carrerbell deve migliorare e deve sforzarsi di riuscirvi, e questo egli intende onestamente fare, con tutto il tempo necessario e prendendo a guida la natura e la verità. Se ciò corrisponde a quanto i critici chiamano arte, tanto meglio. Ma se non lo fosse, quella meta maestosa non ha alcuna probabilità di essere perseguita e raggiunta. L'enigma consiste nel fatto che mentre gli abitanti del sud si risentono per il modo in cui descrivo la vita e i modi di quelli del nord, quelli dello Yorkshire e del Lancashire lo approvano. Dicono che una delle loro principali caratteristiche sta appunto nel contrasto tra la natura rozza e l'alto livello culturale raggiunto. Osservazioni simili, o assai vicine a queste, sono state fatte durante una mia visita presso le antiche famiglie del Lancashire orientale, le cui dimore sorgono sul confine collinoso che corre tra le due contee. Ci si chiede, sono i critici londinesi o gli eredi dei grandi proprietari terrieri del nord che ne sanno di più? Qualsiasi promessa lei mi chieda a proposito dei libri sarà fatta volentieri, purché mi sia concesso di adottare il principio gesuitico della riserva mentale, che permette di dimenticare la promessa fatta ogni volta che sembri opportuno. Gli ultimi due o tre numeri di Pendennis non saranno giudicati molto eccitanti, tuttavia a me piacciono. Benché la storia vada per le lunghe, per me l'interesse non viene meno. Qua e là si sente che la penna è stata guidata da una mano stanca, che la mente dello scrittore è irritata e depressa a causa della recente malattia o di un qualche altro motivo, ma Thackeray, anche quando è stanco, si dimostra più grande di altri scrittori nel pieno delle loro forze. Naturalmente il pubblico non avrà compassione della sua stanchezza e non gli farà concessioni per la mancanza di ispirazione, ma qua e là alcuni lettori di cuore, pur rattristati al pensiero che un tale uomo sia costretto a scrivere mentre non si sente di farlo, si meraviglieranno che, date le circostanze, sappia scrivere così bene. Il pacco dei libri arriverà, non ne dubito, quando farà comodo agli impiegati delle ferrovie inoltrarlo, o per meglio dire, quando cederanno alle ripetute umili richieste dei fattorini di Haworth. Fino ad allora aspetterò con ragionevole pazienza e rassegnazione, ispirandomi docilmente al modello di autonomia che Punch consiglia amichevolmente alle donne d'Inghilterra nella sua rubrica La donna senza protezione. I libri mandati dai suoi editori erano fonte di grande piacere e distrazione per Charlotte. Provava molto interesse nell'aprire il pacco spedito da Cornhill, ma le arrecava anche pena, poiché mentre slegava lo spago e ne prendeva i volumi ad uno, non poteva non ricordare quelle che in simili occasioni avevano seguito i suoi gesti con tanto ardente interesse. Mi mancano voci familiari che commentino allegramente e piacevolmente. La stanza sembra così immobile, così vuota. Tuttavia, mi resta la consolazione che papà prenderà piacere in alcuni libri. La felicità completa e indivisa difficilmente è tale. Non ha sapore. La lettera continua. Mi meraviglio che lei sappia scegliere così bene. Per nessuna cosa al mondo vorrei mutare la scelta. Sono certa che una scelta fatta da me risulterebbe meno soddisfacente di quella che altri così gentilmente e giudiziosamente fanno per me. Inoltre, se sapessi quali libri sono in arrivo, il piacere verrebbe relativamente meno. Preferisco senz'altro la sorpresa. Fra i lavori specialmente benvenuti vi sono La vita di Southey, Donne di Francia, I saggi di Hazlitt, Uomini rappresentativi di Emerson, ma sembra malevolo specificare quando tutti sono buoni. Ho preso un breve libro, Suggerimenti sull'educazione da impartire alle donne, di Scott. Ho letto anche questo e con piacere assoluto. È ottimo, espresso in modo chiaro e felice. Le fanciulle dell'attuale generazione godono di grandi vantaggi. Mi sembra che ricevano molto incoraggiamento nell'acquisire sapere e nel coltivare la mente. Ai nostri giorni le donne possono essere intellettuali e colte senza essere stigmatizzate come babbleux e pedanti. Gli uomini incominciano ad approvarle e ad aiutarle, invece di metterle in ridicolo o soffocare i loro sforzi. Devo dire che, da parte mia, tutte le volte che ho avuto la fortuna di conversare con un uomo veramente intellettuale, beh, mi sono resa conto che il poco che sapevo non era considerato superfluo o impertinente, ma che al contrario mi scoprivo più ignorante di quanto giustamente ci si aspettava da me. Ripetevo sempre: non troverai in me una grande cultura. Quello che a lei sembra il risultato di letture di studio è principalmente dovuto all'intuizione. Contro l'insegnamento di alcuni, anche se intelligenti, ci si ribella istintivamente. Possono avere grandi doti, possono vantare conoscenza della vita e del mondo, ma se sono incapaci delle più fini percezioni, delle fasi più delicate del sentimento, a cosa serve tutto il resto? Credetemi, mentre suggerimenti meritevoli possono venire da fonti senza pretese, da menti non coltivate ma naturalmente belle e delicate, da cuori dal sentire gentile, incapaci di invidia, saggi proclami espressi con pompa e risonanza possono essere perfettamente vuoti, stupidi e disprezzabili. Nessuno fino ad ora, col solo aiuto del greco, è asceso al Parnaso, né ha insegnato ad altri a salirvi. Accludo affinché lei vi dia un'occhiata. Una lettera che è finita nelle mie mani senza che chi l'ha scritta lo sappia. È un povero lavoratore di questo villaggio, un essere pensoso, sensibile, amante della lettura, la cui mente è troppo acuta per la forma in cui è racchiusa e si logora. Non ho parlato con lui più di 3 volte in vita mia, visto che appartiene alla setta dei dissenzienti ed è capitato raramente sul mio cammino. L'ho scritto è una specie di racconto delle sue sensazioni dopo aver letto Jane Eyre. È privo di artificio, è caldo, genuino e generoso. Lei me lo deve restituire perché vi ha detto maggior valore che non testimonianze da più alto pulpito. Ha detto che se Miss Bronte sapesse che lui ha scritto quelle righe, lo schernirebbe. Ma in verità Miss Bronte non lo schernisce. Lamenta che la mente in cui sono nate debba rimanere oppressa dal plumbeo peso della povertà, da una salute cagionevole e dai doveri di una famiglia numerosa. In quanto al Times, come lei dice, l'acrimonia della sua critica si è trasformata in qualche misura in un vero e proprio antidoto. Per essere efficiente avrebbe dovuto essere più giusta. Penso che quassù, a Nord, abbia avuto poco peso. Può darsi che osservazioni critiche, ammesso che ce ne siano state, non siano giunte al mio orecchio, ma certamente, mentre ho udito poche censure contro Shirley, sono stata ripetutamente oggetto di manifestazioni di consenso che a volte hanno toccato l'entusiasmo. Considero poco saggio insistere su questi argomenti. Per una volta devo permettermi di far notare che il generoso orgoglio della gente dello Yorkshire per la mia opera è stato tale da suscitare la mia gratitudine, specialmente perché ha offerto a mio padre una gran fonte di piacere nella sua vecchiaia. I curati stessi, poverini, non dimostrano alcun risentimento. Ciascuno si consola delle proprie ferite scherzando sui confratelli. Mr. Don a tutta prima si risentì. Per una settimana o due si mostrò inquieto, ma si è calmato. L'altro ieri ho avuto il piacere di fargli una buona tazza di tè e di vedergliela sorseggiare con rinata compiacenza. È curioso che, da quando ha letto Shirley, venga a casa nostra più spesso di prima, dimostrandosi notevolmente mite e ansioso di piacere. L'indole di certe persone è un vero enigma. Mi aspettavo di avere da lui almeno una buona scenata, ma fino a questo momento nulla del genere è accaduto. Capitolo 6. Durante i primi mesi di quella primavera, Haworth fu un luogo estremamente insalubre. Il tempo era piovoso, una lenta febbriciattola serpeggiava nel villaggio e gli abitanti della canonica condivisero le sofferenze dei vicini. Charlotte dice: «Io la riscontrai, la febbre, dalla sete continua e dalla mancanza di appetito. Anche papà e perfino Marta si sono lamentati. Alla depressione della salute corrispondeva la depressione dello spirito e di giorno in giorno aumentava in lei il timore del viaggio a Londra progettato con Sir James e Lady Shuttleworth. So quali ne saranno gli effetti, quanto spesso mi sentirò malissimo e quanto mi farò magra e sparuta. Ma chi si sottrae alla sofferenza non conquisterà mai la vittoria. Se intendo far progressi, devo farmi coraggio e sopportare. Sir James ha praticato la professione medica e mi guarda con lo sguardo del medico. Si è subito reso conto che non potrei resistere a molta fatica né sopportare la presenza di molti estranei. Capirebbe, almeno in parte, quanto prontamente la mia riserva di forze si va esaurendo. Ma nessuno, nemmeno il più abile dei medici, può giungere oltre la superficie di questi fenomeni. Il cuore conosce la propria amarezza e la struttura fisica la propria pochezza. E la mente sa le lotte segrete che sostiene. Papà è ansioso, è inquieto e desidera che io vada. Il pensiero di un mio rifiuto lo affligge. Ma le avvisaglie della malattia aumentarono in famiglia. I sintomi furono probabilmente aggravati, se non cagionati, dalla immediata vicinanza del cimitero, pavimentato di lapidi funebri annerite dalla pioggia. Il 29 aprile Charlotte scrive: Abbiamo trascorso una ben triste settimana a Haworth. Papà continua ad essere lungi dallo star bene, spesso di mattina è assai malandato, sintomo che fin da prima avevo notato nell'aggravarsi dei suoi attacchi di bronchite. A meno che migliori molto, non posso nemmeno pensare di partire per Londra. Marta ha sofferto di gravi nevralgie facciali con aggiunta di nausea e di febbre, proprio come te. Io ho preso un raffreddore e un ostinato mal di gola. A farla breve, tutte, eccettuata la vecchia Tabby, siamo malmesse. Quando X fu qui, lamentò un improvviso mal di capo e la sera, dopo che se n'era andato, ho sofferto anch'io lo stesso inconveniente, dolorosissimo, per quasi 3 ore. Una quindicina di giorni più tardi, Charlotte scrive: Ho pensato che papà non stesse abbastanza bene per poterlo lasciare, perciò chiesi a Sir James e a Lady Kay Shuttleworth di andare a Londra senza di me. Era stato combinato che ci saremmo fermati da parecchi loro amici e parenti durante il viaggio, impiegando su per giù una settimana per arrivare. Non posso certo dire che rimpiango di essermi sottratta a questa prova. Avrei sperimentato lo stesso piacere a camminare fra le lame arroventate di un aratro. Ma lamento veramente una grande occasione perduta. Mercoledì prossimo vi sarà il pranzo per l'anniversario all'istituzione del fondo della Regia Società Letteraria nella Freemasons Hall. Il segretario, Octavian Blewitt, mi ha offerto un biglietto per la galleria riservata alle signore. Avrei visto tutti i grandi letterati e artisti radunati nella sottostante sala e li avrei uditi parlare. Thackeray e Dickens sono sempre presenti. Non ci sarò. Non penso che in tutta Londra vi sia niente di più interessante per me. Tuttavia, poco tempo dopo, dovette recarsi a Londra per affari e siccome Sir James Kay Shuttleworth era trattenuto in campagna per una indisposizione, accettò l'offerta di ospitalità fattale da Mrs. Smith per tutto il tempo occorrente a portare a termine la transazione che la interessava. Nell'intervallo tra il piano primitivo e quello successivo, scrisse la lettera seguente a uno degli amici che nel campo della letteratura apprezzava maggiormente. 22 maggio. Avevo pensato di portare questa volta di persona il Leader e l'Ateneum invece di spedirli per posta, ma le circostanze sono cambiate. Il mio viaggio a Londra è nuovamente rinviato e, a quanto credo, indefinitamente. Ne è causa lo stato di salute di Sir James Kay Shuttleworth, causa che temo non sarà rimossa in tempo breve. Una volta di più, dunque, mi sistemo nella quiete canonica di Haworth con i libri per compagni e con una occasionale lettera come visitatrice, compagnia muta ma mai litigiosa né volgare né priva di interesse. Uno dei piaceri che mi ero ripromessa consisteva nel porle varie domande circa il Leader, che a modo suo è una pubblicazione veramente interessante. Volevo, fra l'altro, chiederle i veri nomi di alcune persone che vi scrivono. E anche cosa vi scrive Lewis oltre a insegnamenti. Ho sempre pensato che l'articolo che va sotto il titolo Letteratura sia suo. Alcune delle comunicazioni della rubrica Lettere aperte sono strane davvero, ma mi sembra onesto e giusto accettarle. Il concetto di questa pubblicazione non è forse assolutamente nuovo? Non ricordo di aver mai visto prima qualcosa di simile. Ho ricevuto il suo pacco proprio questa mattina. Grazie per la lettera che lo accompagna. L'ardente desiderio di libertà e di riposo che il sole di maggio desta in lei suscita la mia simpatia. Temo che Cornhill sia di poco preferibile a una prigione nei caldi giorni della primavera e dell'estate. È veramente triste pensare a tutti voi faticosamente impegnati alle vostre scrivanie in un tempo tanto invitante. Io invece sono libera di passeggiare in brughiera, ma quando vi esco da sola, ogni cosa mi ricorda il tempo in cui altri mi accompagnavano. Allora, la brughiera mi sembra una landa selvatica e triste. Mia sorella Emily l'amava d'amore speciale. E non vi è un solo poggio di erica, non un ramoscello di felce, non una foglia di mirtillo, non l'improvviso alzarsi in volo di una allodola o di un fenello che non me la ricordi. La vista deliziava Anne e quando mi guardo intorno, eccola, nelle tinte azzurrine, nelle pallide brume, nelle ondulazioni e nelle ombre dell'orizzonte. Nel silenzio delle colline mi tornano in mente i versi e le stanze delle loro poesie. Un tempo mi piacevano, ora non oso rileggerle e provo spesso il desiderio di bere un sorso di oblio e dimenticare quelle cose che finché sarò in me non dimenticherò mai. Alcuni sembrano ricordare i loro morti con una specie di malinconia, di malinconica compiacenza, ma credo che essi non li abbiano seguiti durante le subdole malattie, che non abbiano assistito ai loro ultimi momenti. Questi sono i ricordi che di notte vegliano al nostro capezzale e di mattina si sollevano insieme a noi dal guanciale. Alla fine, tuttavia, esiste la grande speranza. La vita eterna è ormai loro. In quel periodo Charlotte dovette scrivere molte lettere a scrittori che le inviarono i loro libri e ad estranei che le esprimevano l'ammirazione per quelli suoi. Quella che fa seguito appartiene alla seconda categoria. È indirizzata a un giovane studente di Cambridge. 23 maggio 1850. Le scuse sono davvero superflue per una realtà di sentimenti, per uno spontaneo impulso dello spirito che l'ha spinta a scrivere la lettera alla quale ora rispondo brevemente. Certamente significa qualcosa per me che quanto scrivo venga accettato da un cuore sensibile e da un intelletto raffinato. Indubbiamente è molto che le mie creazioni, quali che siano, possano trovare accoglienza, apprezzamento, indulgenza presso un cuore amichevole, una mente generosa. Lei è accolto a braccia aperte, quale fratello di Jane, di Caroline e di Shirley, e sono sicura che esse spesso parleranno al loro fratello di adozione quando si sentirà solo e lo consoleranno quando sarà triste. Se non sapranno trovarsi a loro agio in una mente pensosa e incline alla simpatia, se non sapranno diffondere nel suo crepuscolo un riflesso allegro e intimo, la colpa sarà loro. Non si dimostreranno in tal caso così amabili, così benevole, così reali come dovrebbero essere. Se invece potranno farlo, prendendo dimora nei cuori umani, realizzeranno il miglior disegno per cui sono state create. Mantener viva una fiamma genuina, che deve scaldare senza bruciare, illuminare senza abbagliare. Cosa importa se parte del piacere in queste creature nasce dalla poesia della sua giovinezza piuttosto che da una magica forza riposta in loro? Cosa importa se fra 10 anni lei sorriderà rammentando le sue attuali impressioni e vedrà in una luce diversa Currer Bell e i suoi scritti? Dal mio punto di vista, questa possibilità non toglie nulla al valore di quanto lei sente ora. La gioventù ha il suo romanticismo e la maturità la sua saggezza. Come la mattina e la primavera possiedono freschezza e il meriggio e l'estate la loro forza, la notte e l'inverno il loro riposo. Ognuno di questi attributi è buono nella giusta stagione. La sua lettera mi ha procurato piacere e di ciò la ringrazio. Currer Bell. Miss Bronte andò in città i primi di giugno e godette molto del suo soggiorno. Vide pochissime persone, secondo gli accordi, ne limitò la durata a 15 giorni, temendo l'eccitamento febbrile e il conseguente esaurimento, inevitabile risultato della benché minima eccitazione per il suo fragile fisico. 12 giugno. Da quando ti ho scritto l'ultima volta non ho avuto molto tempo tutto per me, se non quello assolutamente necessario da dare al riposo. Nell'insieme, tuttavia, fino a questo momento sono andata avanti molto bene, soffrendo assai meno di quanto mi accadde la volta scorsa. Naturalmente in una lettera mi è impossibile darti il minuzioso resoconto di come passo il tempo. Posso solamente dirti 3 avvenimenti principali. Ho visto il duca di Wellington alla Cappella Reale. È veramente un vecchio maestoso. Ho visitato la Camera dei Comuni, che spero descriverti una volta o l'altra quando ci vedremo, e ultimo avvenimento, ma non il minore, ho parlato con Mr. Thackeray. È venuto una mattina per più di 2 ore. C'era solo Mr. Smith con noi per tutto il tempo. In seguito l'ha descritta come una strana scena e suppongo che davvero lo sia stata. Il gigante sedeva di fronte a me. Io mi misi a parlargli di alcuni dei suoi difetti, letterari naturalmente. Li esposi uno a mano che mi venivano in mente, chiedendo una qualche spiegazione oppure una difesa. Egli si difese da Gran Turco e da Pagano, cioè a dire le scuse furono il più delle volte peggiori dei delitti stessi. La discussione si concluse in un clima passabilmente amichevole. Questa sera sono invitata a pranzo in casa sua. Ho visto Lewis. Non potrei provare per lui se non sentimenti in parte tristi e in parte teneri. Strana parola quest'ultima. Ma ne faccio uso perché l'aspetto del viso di Lewis mi commuove, quasi fino alle lacrime. Somiglia così stranamente a Emily. I suoi occhi, le fattezze, il naso stesso, la bocca alquanto sporgente, la fronte. A volte perfino l'espressione. Qualsiasi cosa dica, credo che non potrei mai trovarlo antipatico. Ho notato inoltre un'altra somiglianza che mi ha commossa dolorosamente. Ricorderai che ti ho parlato di una Miss Kay, una giovane scrittrice che provvedeva alla madre col suo lavoro. Sentendo che aveva un grande desiderio di incontrarmi, mi sono recata da lei ieri. Mi è venuta incontro, a metà tremante e a metà affettuosa. Sedemmo vicine e dopo aver parlato con lei 5 minuti, il suo viso non mi fu più estraneo, ma malinconicamente familiare. Era quello di Marta, in ogni fattezza. Tenterò di trovare un altro po' di tempo per incontrarla nuovamente. Intendo trattenermi qui una settimana ancora, al massimo, ma alla fine non potrò tornare a casa. La canonica è priva del tetto, urgenti riparazioni essendosi rese necessarie. Quello stesso giorno, 12 giugno, scrissi a Martha Brown, la giovane domestica, la lettera che trascrivo con particolare piacere perché mostra il lato femminile del suo carattere e la cura con cui è stata conservata e la riverenza con la quale è considerata vale a smentire la massima di La Rochefoucauld: nessun uomo è un eroe agli occhi del suo cameriere. Charlotte Bronte fu un'eroina per la giovane domestica Marta e per quanti la conobbero da vicino. Londra, 15 giugno 1850. Cara Marta, non ho dimenticato la promessa di scriverti, benché una gran quantità e varietà di impegni mi abbiano fino a questo momento impedito di mantenerla. Da una lettera che ho ricevuto da papà questa mattina, sembra che siate tutti nel trambusto del rifacimento del tetto. E penso con la massima ansietà alla possibilità di un cielo coperto, sperando e confidando che non debba piovere finché tutto non sia a posto. Tu e Martha Redman abbiate cura di non rompervi la schiena nel tentativo di sollevare e trasportare pesanti carichi. Dovete anche evitare di rimanere nelle correnti d'aria, di uscire senza il cappuccio o la cuffia per non ammalarvi. Sono abbastanza curiosa di sapere come ti sei aggiustata per trovare un angolo per dormire, sia per te che per Tabby. Non ti aspettare che io ti faccia una qualsiasi speciale descrizione di Londra, perché questo mi prenderebbe molto tempo e io ho solamente pochi minuti da dedicarti. Ti dirò solo che è una vera e propria Babilonia, e in questo periodo allegra e affollata in modo speciale, visto che questa è l'alta stagione per Londra. È tutta la bella gente è in città. Ho visto una quantità di lords e di ladies all'opera alcune sere fa. Ed eccetto per il loro elegante modo di vestire, non credere che valgano molto di più o di meno dei semplici mortali. In risposta a questa mia, dovresti, quando avrai il tempo di farlo, scrivermi 2 righe per dirmi come sta papà e come state tu e Tabby, come va avanti la casa e come ve la cavate. Con cari saluti a Tabby e a Martha Redman sono, cara Martha, la tua sincera amica Charlotte Bronte. Poco tempo dopo si recò a Edimburgo per riunirsi agli amici dei quali era stata ospite in città. Rimase solo pochi giorni in Scozia. Edimburgo la incantò, inducendola a dire di Londra che era squallida al confronto. Scrive: «Il mio soggiorno in Scozia fu breve. E quel che ne vidi ha specialmente compreso in Edimburgo e nelle sue immediate vicinanze, Abbotsford e Melrose, poiché fui costretta a rinunciare alla mia primitiva intenzione di andare da Glasgow a Oban e attraversare una parte delle Highlands. Ma, benché il tempo sia stato breve e la visita corta, trovai un tale incanto di situazioni, compagnie e circostanze che penso il piacere sperimentato in quel breve tempo eguagliò per intensità e superò di qualità tutto quanto Londra mi diede durante la permanenza di un mese. Edimburgo, paragonato a Londra, è come una vivida pagina di storia messa a confronto con un noioso trattato di economia politica. Quanto a Melrose e ad Abbotsford, già i soli nomi possiedono musica e magia. E in una lettera a un diverso corrispondente dice: "Non ho voluto scriverle immediatamente dopo il mio ritorno a casa, perché ogni ritorno in questa vecchia canonica porta con sé delle emozioni che preferisco lasciar passare quietamente prima di mettermi a scrivere. Le 6 settimane di cambiamenti e di piacevoli distrazioni sono passate, ma non sono perdute. La memoria registrò i particolari di ciascuna, a mano che trascorrevano, specialmente i 2 giorni passati in Scozia. Furono davvero 2 giorni assai piacevoli. La Scozia mi era sempre piaciuta come idea, ma ora, nella sua realtà, mi piace ancora di più. Mi ha regalato alcune ore fra le più felici di quelle che io abbia mai vissute. Non tema, tuttavia, che mi prepari a infastidirla con descrizioni. Lei avrà ormai ricevuto un'essenziale e piacevole relazione su ogni cosa, alla quale una qualsiasi aggiunta da parte mia sarebbe superflua. I miei sforzi attuali sono indirizzati a coordinare i pensieri, tagliar loro le ali, addestrarli alla disciplina e costringerli ad accingersi a un qualche utile lavoro. Sono in ozio e continuano a prendere il treno per tornare a Londra o a fare un'incursione oltre frontiera. Sono specialmente pronti a perpetuare. E chi, in verità, avendo visto una volta Edimburgo sul suo roccioso leone rampante, non la rivede in sogno dormendo a occhi aperti? Caro signore, non voglio che lei pensi che io bestemmio quando le dico che la sua grande Londra, paragonata con Dun Edin, la mia romantica città, sembra prosa rispetto alla poesia. Ho un roboante, incoerente, pesante poema epico messo a raffronto con una lirica breve, vivida e chiara come un lampo abbagliante. A Londra non avete nulla di simile al monumento di Walter Scott. E anche se lo aveste, con tutte le glorie dell'architettura messe insieme, non avete nulla che si avvicini al seggio di Artù. E soprattutto non possedete il carattere nazionale scozzese. Ed è questa la vera grandezza che, dopo tutto, dà alla regione il suo vero incanto e il suo vero carattere. Al ritorno dalla Scozia, Charlotte trascorse nuovamente alcuni giorni con i suoi amici e poi prese la via di Haworth. 15 luglio. Sono arrivata a casa benissimo e fui più che felice che nessun ostacolo avesse differito il mio ritorno anche di un solo giorno. Proprio al piede della collina di Bridge House incontrai John col bastone in pugno. Fortunatamente mi vide nel calessino. Si fermò e mi informò che stava partendo per B, mandato da Mr. Bronte a vedere come stavo, perché si era molto angustiato dopo aver ricevuto la lettera di Miss. Al mio arrivo trovai papà in uno stato di grande eccitazione nervosa e di allarme, a cui naturalmente Marta e Tabby si erano unite. La casa è pulitissima e penso che non sia umida. Rimane tuttavia moltissimo da fare per riordinare e sistemare. Abbastanza da tenermi spiacevolmente impegnata per un certo tempo. Ho sinceramente ringraziato il cielo di aver trovato papà abbastanza bene, ma temo che incomincino in lui i sintomi di un raffreddore. Il mio migliora. L'articolo di un giornale che ho trovato qui mi ha divertita. È stato pubblicato mentre mi trovavo a Londra. Beh, te lo occludo per farti ridere. L'autore è uno scrittore geloso delle scrittrici. Non so chi sia, ma deve essere uno di quelli che ho conosciuto. Gli uomini brutti, quelli che si danno arie da Rochester, non è una cattiva trovata. Ad alcuni di quelli ai quali si allude, non piacerà. Mentre Miss Bronte si trovava a Londra, fu convinta a posare per il pittore Richmond, che le fece un ritratto. Si tratta di un disegno a carboncino, a mio giudizio di un'ammirevole somiglianza, benché naturalmente vi siano persone di opinione contraria. E come al solito, quelle che hanno conosciuto meglio l'originale sono state le meno soddisfatte. Mr. Bronte pensa che Charlotte sembri più vecchia nel ritratto e che i suoi lineamenti non siano lusingati, ma ammette che l'espressione vi è resa in modo meraviglioso e vivo. Ella inviò al donatore il divertente resoconto dell'arrivo del ritratto. 1 agosto. La cassetta piccola per me è giunta contemporaneamente a quella grande per papà. Quando lei dapprima disse che aveva fatto incorniciare il ritratto del duca e che me lo regalava, mi sentii quasi irritata per una tale eccessiva generosità. Ma ora, mentre lo guardo, non posso non riconoscere che ha seguito una felice ispirazione. È il suo vivo ritratto e, come ha detto papà quando lo ha visto, quasi per nulla simile ai soliti ritratti. Non solo l'espressione, ma anche la forma della testa è diversa, di un carattere di gran lunga più nobile. Considero questo ritratto un tesoro. Sembra che la signora che ha lasciato il pacco per me sia Mrs. Gore. Il pacco conteneva uno dei suoi lavori, gli Hamilton, e una cortesissima e amichevole lettera nella quale mi sento chiamata cara Jane. Papà sembra soddisfatto del mio ritratto, come pure le altre persone che lo hanno visto. Con una non trascurabile eccezione, cioè a dire la nostra vecchia domestica, che sostiene tenacemente che non è somigliante. Che mi invecchia troppo, ma siccome con uguale ostinazione asserisce che quello del duca di Wellington è il ritratto del padrone, ossia di papà, temo che non si debba dare troppo peso alla sua opinione. Probabilmente confonde i ricordi di me quando ero bambina con le impressioni attuali. Chiedendole di ricordarmi sempre cordialmente a sua madre e alle sue sorelle, sono la sua molto non grata, secondo quanto lei desidera, Charlotte Bronte. È facile comprendere che due persone che vivono insieme, come facevano Mr. Bronte e sua figlia, dipendendo quasi totalmente l'una dall'altro per avere compagnia e unite da un amore profondo, benché privo di dimostrazioni, che questi due membri sopravvissuti di una famiglia abbiano conosciuto momenti di acuta ansietà l'uno per l'altra. Non ho letto una sola lettera di lei che non faccia menzione delle condizioni di salute del padre, o per ringraziare Dio con semplice ardore perché sta bene, oppure se una qualche infermità dovuta all'età lo assale, ne parla e poi se ne distoglie come da una piaga dolorosa che non sopporta di essere toccata. Egli, da parte sua, registra ogni indisposizione dell'ultima figlia rimastagli, ne esagera la natura e a volte si mette in uno stato di grande agitazione, come quando l'amica di cui Charlotte era ospite aveva accennato scrivendogli che ella aveva preso un brutto raffreddore. Non aveva avuto pace finché non aveva incaricato un messaggero di partirsene seduta stante e percorrere 14 miglia per andare a vedere coi propri occhi quale fosse la gravità del male e tornare a riferirgliene. Charlotte sentiva che la naturale ansietà del padre circa il suo stato di salute aumentava la propria depressione nervosa e nella lettera seguente esprime chiaramente il desiderio che si parli della sua salute il meno possibile. «Sono veramente spiacente di essermi lasciata sfuggire dalle labbra le parole alle quali accenni, visto che hanno avuto su di te un effetto così poco piacevole. Ma scaccia pure dalla mente ogni ombra di ansietà, e a meno che la costrizione ti sia molto sgradevole, ti prego vivamente di non parlarne mai più. È la snervante ansietà degli altri che ha impresso nella mia mente pensieri e aspettative che vanno in cancrena ovunque mettono radice, contro i quali fallisce qualsiasi sforzo della religione e della filosofia e il cui prevalere equivale a un terribile destino. Il destino di colui o colei la cui vita è sotto la minaccia di una spada sospesa a un crine. Ho dovuto supplicare anche papà di prendere in considerazione la cosa. Il mio sistema nervoso entra subito in tensione. Vorrei mantenerlo in uno stato di fredda razionalità, ma devo resistere con determinazione all'espressione, anche ben intenzionata, delle apprensioni eccessive di cui non posso essere in alcun modo responsabile. Per il momento sto abbastanza bene, grazie a Dio. Papà, confido, non sta peggio, ma lamenta una generale debolezza.